se al fin di travolcar sei m'assieme non falli io me saudi Dio me saudi Dio me saudi ti trovo ancor Dio me saudì Dio me saudì ne rispondi d'un padre all'affetto Chi lo servi di volermi il petto mi lasciate lasciarti come detta non più dubbi partiamo a fretta a cumpol ascolti tu colpe in mano Thank you. ciel cortese in vivo, grata vi son barone, d'averlo pure gradito. Fermo è qui, il vedete? Che non è vero, il vero. A voi non un sol detto, si volta questo Alfredo. Non un detto, non un detto. Fortuna nell'amore, fortuna recca il gioco, è sempre vincitore. O vincerò stasera e l'oro guadagnato, o sciago del tra i corpi ritornerò beato. Solo no, no, tale che vivo meco ancora. Parole m'appellaste, siete sì gran fortuna che al gioco mi tentaste. Sì, la visita c'è. Alla manca cento, un asso, un fante, hai vinto, il doppio sia, un quattro, un sette, ancora, pur la vittoria mia. Bravo davvero, sorte, è tutto per Alfredo. Hai miglior la spesa, hai baronte il vedo. Seguite pur, la cena è pronta. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Pietà, pietà, grandio, pietà, grandio, di sé. Se continuar m'aggrada, per ora non possiamo. Più tardi la rivincita al gioco che vorrete. Seguiam gli amici, poscia sarò qual brame. Andiamo. Partirò, ma giura in ante che lo ungo a

Oh, sentite soffre il mio corpo ma tranquilla ho l'alma mi conforta e sera un pio ministro a religione e sollievo ai sofferenti e questa notte e più tranquillo il sonno coraggio adunque la convalescenza non è lontana più tardi non mi scordate come va signore la tisi non le accordo che poche ore Ah, come son mutata, tutto il futuro Di più non lo cerchi, troppo rimorso al mare. Hurrah!